And when you're right. Runtime Radio, la Talk Radio Geek, vi dà il benvenuto. Perché ci sono quelle volte che tu guardi avanti e improvvisamente ti rendi conto che in realtà stai guardando indietro. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Ma buongiorno a tutti carissimi amici, buongiorno, buongiorno un cazzo come al solito qui su www.runtimeradio.it, sempre più live, sempre più radio, sono le 7.02 perfettamente in diretta, siamo qui per una nuova puntata di questo che è il programma che tutti avrebbero potuto farne a meno, compreso chi lo fa, però che ha deciso di farlo perché in tutto sommato gli fa piacere. Allora, intanto notizie di servizio, continuano ovviamente le live della mattina, questo ci fa veramente molto molto piacere, ma appunto nello slogan sempre più live, sempre più radio, vi ricordo che questa sera dalle 20 alle 20.30, anche se in una fase temporale, diciamo sperimentale, per vedere come collocare bene il programma, per vedere anche come collocarlo dal punto di vista insomma dell'orario e via dicendo, andrà in onda la prima puntata di Le Orazioni della Sera di Walter Sbano, che questa sera inizia appunto una serie di live che andranno sempre in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì, sempre qui su www.runtimeradio.it. Se state cenando con la vostra fidanzata, o state finendo di fare i compiti dei vostri figli, oppure state sparecchiando con la vostra famiglia, vi suggerisco assolutamente di ascoltare questo nuovo programma di Runtime Radio, con il quale ovviamente la cena vi si rimporrà, litigherete con la vostra fidanzata e picchierete i vostri bambini. Bene, che è importante, picchiare i bambini è sempre una cosa assolutamente fondamentale. Salutiamo immediatamente tutti coloro che sono venuti, aderiti, adempriti al Breeders a questa diretta. Quindi salutiamo al 9000 Michela, chiaramente Walter Sbano e che appunto abbiamo citato testè, e ovviamente anche Francesco, che ringraziamo naturalmente. Poi vabbè, noi ci fa sempre anche piacere pensare, così come succede con la trasmissione di Leo il lunedì, il mercoledì e il venerdì con il Mattino all'Oro in podcast, che questa diventi anche una sorta di radio di servizio, dove la gente insomma faccia il servizio, nel senso che insomma una mattina quando si sveglia si accende tutto, no? Cioè, si accende tutto dentro noi stessi. Vedo insomma che la chat già in una sorta di fermento. Picchiare i bambini con altri bambini, esatto, infatti è quello, è lo scopo fondamentale un po' di questa cosa, che è un insegnamento universale che abbiamo provato a dare quando c'era la meravigliosa trasmissione morti di bestemmie che ci manca. E ogni volta ripromettiamo, sì, ma adesso torniamo, e poi non ripromettiamo. Dicevo nel micro incipit che abbiamo fatto, è che a volte tu guardi avanti, o perlomeno propendi verso l'andare avanti, e ti rendi conto che in realtà si ritorna indietro. Io questo procedimento lo chiamo elastico generazionale, cioè nel senso che secondo me c'è sempre una generazione profondamente rivoluzionaria che comunque in qualche maniera tende a far fare quello step in avanti alla nostra società, diciamo, cercando di abbattere delle limitazioni, costruendo dei diritti, acquisendo alla fine anche indipendenza e aumentando gli elementi di libertà. E poi c'è quella generazione che fa quella sorta di step indietro, magari mezzo passo indietro, magari tutto il passo indietro, magari anche un passo e mezzo indietro, perché dipende. Penso che sia anche fisiologico nella storia dell'umanità, insomma, questo comportamento rivoluzione contro rivoluzione. Ricordiamo anche i vari passaggi, no? Tra illuminismo, neoclassicismo e romanticismo, no? Che poi il romanticismo poi alla fine in qualche maniera funzionava da intercapedine, diciamo, no? Più che intercapedine, diciamo come transizione, no? Tra l'illuminismo, quell'estremismo rivoluzionario, e il neoclassicismo, che poi in realtà non era altro che una sorta di reazione immediata al ripristino, insomma, diciamo, dei presupposti precedenti. E questo, insomma, è quello che poi succede nella vita normale anche alle società come la nostra, dove praticamente tu vedi una generazione. Io poi in questo specifico episodio ancora una volta volevo parlare delle liste elettorali di Roma e ancora una volta non lo farò, perché vabbè, mi piace fare così, a me non è che tutto sommato mi piace che mi sento le cose, perché la cosa bella è partecipare ai dibattiti che nascono sul Runtime, perché veramente da ieri è scoppiato il finimondo nel senso positivo, dove praticamente sempre tramite le trasmissioni di Leo nascono magari dei meccanismi, nascono delle discussioni che poi a volte si esauriscono bene, a volte si esauriscono male, a volte si esauriscono e basta, e ti rimane sempre la sensazione che magari non hai detto proprio quello che tu pensavi. Però ecco, in questa puntata mi rivolgo anche un po' al pubblico femminile, no? In qualche maniera, perché è interessante poi magari cercare di interagire, di creare un po' dibattito su questo, magari, ecco, chi è adesso in live in chat e chi poi magari parteciperà successivamente alla versione in podcast subito dopo quando sarà pubblicata. E perché la mia generazione ha, diciamo, vissuto sulla spinta propulsiva di quelle che sono state le grandi rivoluzioni identitarie. Perché poi oggi si fa un grosso parlare di identità di genere, di praticamente una sorta di necessità di etichettatura, estensione dell'etichettatura dei vari generi, che di per sé lì per lì può sembrare una cosa un po' superflua, stupida o via dicendo. In realtà aiuta la società, ma più che la società, aiuta le persone a sentirsi a proprio agio all'interno di un contesto, no? Perché comunque, come abbiamo detto tante volte, noi ci troviamo a dire vabbè, ma che significa essere binari, che significa essere liquidi, che significa essere questo o significa essere quest'altro, no? Perché comunque noi identifichiamo appunto la nostra esistenza in maniera binaria, cioè noi vediamo l'uomo, vediamo la donna, e non e spesso e volentieri non ci soffermiamo su quello che c'è all'interno di questi due blocchi, fondamentalmente, no? E quante sfumature ci possono essere. E soprattutto che cosa significa magari essere collocati magari in un certo tipo di appartenenza, che appunto dico non è ideologica ma è prettamente esistenziale, no? E questa discussione è venuta in mente tante volte quando io stesso partecipando ho magari affermato, dicendo che il femminicidio di per sé, ad esempio, parliamo di questa cosa, come definizione anche dal punto di vista legislativo, apparentemente non ha senso. Perché non ha senso? Perché è una distinzione all'interno di un meccanismo più globale che è quello dell'omicidio. Cioè esiste il reato, no? Fare una specifica in realtà può sembrare quasi un vezzo ideologico, appunto. In realtà poi, se noi ci andiamo un po' a ragionare sotto, secondo me poi il discorso è molto più articolato, perché a parte omicidio, a parte il fatto strettamente linguistico che lega il genere umano alla figura dell'uomo, no? Che comunque già questa è una cosa che andrebbe un po', come posso dire, rivoluzionata, andrebbero trovati anche nuovi meccanismi, nuovi termini, no? Il modo di identificare l'umanità come umanità, non come uomo, cioè nel senso che poi alla fine questo un po' a volte a me mi ha fatto riflettere su questa cosa qui. E poi è chiaro che l'omicidio o l'umanicidio, chiamiamolo così, l'umanicidio, diciamo, sia un reato di per sé in senso universale, no? In senso globale, che non avrebbe in teoria bisogno di una distinzione. In realtà poi alla fine, all'interno di questo contesto che è universale, ci sono tutta una serie di sfumature legate alle distinzioni, alle differenze, alle debolezze, comunque a chi è più indifeso rispetto a il genere in senso più globale, no? Ad esempio il problema del femminicidio, che ha creato tantissime polemiche da quando è uscito fuori, proprio dal punto di vista anche terminologico, nasce proprio il fatto che, e noi lo stiamo vedendo in un paese culturalmente ancora legato a dei vincoli che sono quelli dell'inizio secolo, no? Le famose leggi sul diritto d'onore, queste cose che noi comunque ce le portiamo come retaggio, e quando poi le cerchiamo di cancellare, tutte queste cose, c'è sempre una reazione, una controreazione, c'è qualcuno tra di noi che no, vorrebbe tornare indietro, no? E come l'emancipazione della donna, no? La donna deve essere emancipata. Poi dopo c'è una parte di magari di ragazze che ho sentito dire: no, ma però non è che io, l'uomo deve fare così, l'uomo deve fare colà. Cioè, questo vincolo culturale alla fine comunque in qualche maniera ci continua a dimostrare quanto siamo fermi, no? Nonostante i grandi progressi, nonostante i grandi sforzi, siamo ancora fermi a quel tipo di meccanismi là. E questa è una cosa terribile, se ci pensate. E questa cosa del femminicidio è sì un omicidio, un umanicidio, chiamiamolo così, ma è un omicidio specifico, non è un omicidio generico. Perché spesso e volentieri è specifico? Perché è un atto nei confronti di una donna su una base strettamente culturale, ossia io ti ammazzo perché tu sei una cosa mia e tu non vuoi essere una cosa mia. E questo è il proprio il super presupposto. Poi è chiaro che se all'interno di una storia più ampia di spionaggio, di criminalità o roba del genere, viene ammazzata una donna così come viene ammazzato un uomo per un contesto più generico, è chiaro che insomma puoi accomunare, che ne so, un omicidio a un altro omicidio. Ma ci sono comunque degli elementi fondamentali nel nostro comportamento che ancora ci inducono a dover fare questa distinzione. Cioè la distinzione non nasce per una questione ideologica, nasce per una questione di necessità, per portare alla luce il fatto che ancora oggi in Italia ogni mese, ogni sei mesi, ogni anno muoiono delle donne perché per una questione strettamente relazionale, passionale, per cose che poi la cosa assurda in tutto questo, no? Cioè il fatto che queste persone magari denunciano e non vengono manco prese sul serio, no? E qui ritorniamo, poi dopo lo aggiungo perché aggraviamo un po' la questione, no? Ed è per questo che chiaramente le dichiarazioni, che poi nasce da questo un po' questa cosa, no? Dal fatto che Leo Varghion ieri nella trasmissione ha parlato del fatto che la Palombelli è stata com'era il termine, fraintesa. Ma io non voglio entrare nel merito nelle sue intenzioni, perché magari oggettivamente io non sono in grado di capire quello che magari una persona maldestra, incapace come Barbara Palombelli, che è lì perché deve essere lì, perché faceva tutto il discorso sulla dignità del giornalismo, e poi ti ritrovi a far forum, per esempio, no? Proprio perché comunque in qualche maniera devi lavorare, no? Quindi non so a entrare nel merito magari del maldestro tentativo di fare un'affermazione e quello che è uscito fuori da quell'affermazione. Però è il tentare di giustificare il fatto che uno possa fare un certo tipo di affermazione. Perché dire sì, certo, è chiaro che le donne vanno protette, salvaguardate, però insomma questa cosa degli uomini che ammazzano le donne è brutto, però siamo sicuri che non so pure loro un po' che rompono i coglioni. Che poi, detto da una donna, sta cosa assume una gravità spropositata, e tante volte ti domandi quanto queste persone dicano realmente quello che pensano rispetto al fatto che magari non è veramente quello che pensano, ma è il, come posso dire, la tendenza, l'autore della trasmissione, la tua necessità di aumentare, che ne so, la tua visibilità all'interno di un contesto. Perché oggi ricordiamo che il giornalismo, la televisione, è tutto cambiato in funzione anche della nuova logica, e quella del social, no? Quindi non sai più quanto la gente esprima veramente le considerazioni o le esprima in funzione di un like, no? Perché poi anche questo, insomma, da tenere molto molto molto in considerazione. E comunque torniamo al discorso fondamentale, che è quello che ci dice ma magari rompono i coglioni, no? Allora bene, tutto, cioè io, c'è mio figlio che è un rompicoglioni, lo posso andare a bastonate, va bene, cioè mica problema. La tipa va in giro in minigonna con le chiappe di fuori, la posso stuprare, va bene, che in fondo che problema c'è? La prendi là in mezzo alla strada, la porti dietro a un vicolo, da ingroppi, e poi dopo, insomma, giustamente vai in tribunale e dici questa stava col culo fuori, che vuoi? È la stessa cosa, cioè il principio è lo stesso. Giustificare un'azione violenta, che di per sé non è mai giustificabile, con un qualsiasi tipo di giustificativo o tentativo di spiegazione, è un'aberrazione. Cioè noi possiamo dare tutte le attenuanti possibili e immaginabili alle situazioni, ma un atto di violenza non si giustifica mai, soprattutto quando poi così definitivo come quello di un omicidio, non è giustificabile, ragazzi. Cioè, poi io ho visto che nella discussione, ho visto anche DJ Joker che faceva, io non l'ho seguito, devo dire la verità, perché non posso seguire tutto quanto, quando un po' seguo la diretta vedo, do un supporto tecnico, vedo se ci sono problemi o questioni, però dice no, perché, però una frase mi ha fatto riflettere, no? Cioè maschilismo e femminismo sono etichette, sono blande etichette, sì, ma che c'entra? Perché alla fine quello che mi viene da dire è che c'entra. Cioè, nel senso che non è il fatto che siano delle etichette, a volte anche forzate, comunque non siano da supporto ad alcuni concetti. Non sono delle scatole, sono comunque dei contenitori. Perché all'interno di questi contenitori ci sono degli elementi culturali legati al nostro paese, e che far finta che non esistano, pensare che dobbiamo andare oltre a questo eliminando le terminologie, ma non eliminando il problema, alla fine non abbiamo risolto assolutamente niente. Cioè, questa è una cosa, secondo me, assolutamente da tenere in considerazione. Perché non si giustifica, ragazzi, non si può giustificare. Non si può sentire. Cioè, io posso capire un litigio del vicino di casa che ha tirato il vaso sul cofano della macchina dell'altro vicino di casa. Arrivano i carabinieri. Ma lei questa cosa non la fa. Però lui parcheggia sopra la mia aiuola. Allora lì puoi trovare tutte le attenuanti, no? Cioè, nel senso, una discussione. Ma quando una persona priva della libertà, anzi scusa, priva della vita un'altra persona, che è un atto estremo, proprio definitivo. Ma ancora peggio, così prendendo anche l'esempio di prima, viola l'intimità della persona, soprattutto perché alla fine comunque c'è un fatto anche legato alla fisicità, no, di un gesto, alla violenza di un gesto, e tu non lo puoi giustificare. Tu non puoi di che comunque quella persona si comportava così o si vestiva così, e allora ecco queste che sono le conseguenze. Ed è su questo che ti rendi conto che ancora c'è un lavoro culturale da fare, perché nel rispetto dell'etica generale, comunque magari della sensibilità che possiamo che comunque i singoli individui devono e possono avere, dobbiamo arrivare a una società nella quale nessuno si pone il problema del fatto che una persona si veste X piuttosto che Y, che la persona decide di non avere più quel tipo di relazione con quella persona, e che le relazioni non sono degli atti di proprietà, ma sono delle relazioni, sono delle persone che a un certo punto della loro vita trovano altre persone con le quali hanno piacere di stare e decidono di condividere il loro spazio, il loro tempo e anche la loro intimità con queste altre persone. Tutto qua. Io penso che questo discorso sia abbastanza semplice. Io credo che, per quanto nelle polemiche la Barbara Valombelli abbia provato a giustificare questo tipo di esternazione, è comunque una cosa maldestra, soprattutto proprio perché sei una donna e sei anche la moglie di un sindaco, che di un ex sindaco progressista, in un'epoca in cui ci si vantava molto, no, di questo progressismo. Ovviamente poi c'è da fare anche un altro tipo di discorso, che adesso vado ad approcciare con quello che è il secondo elemento di cui si è discusso in questi giorni, quindi dopo questo che è stato appunto trattato in mattino all'ora in podcast di Leo. Ovviamente poi c'è anche una questione che avrebbe dovuto essere trattata ieri sera in OGM, adesso poi non ricordo bene se è stata trattata, ma sicuramente sì, perché poi ogni tanto c'erano delle telefonate così, insomma. Comunque, de Verandas questi sono i Verandas, ragazzi. Give me a sign. Dammi un segno qui sulla veranda. E questi sono carucci, dai, questo è un po' indie rock, così, cose un po'. Sempre da Giamento, ragazzi. Musica alternativa indipendente, Creative Commons, ma soprattutto copyleft e non copyright, che è, insomma, una cosa assolutamente importante. Forse copyleft no, perché Creative Commons è comunque una licenza. Però vabbè, sica, comunque andate su giamento.com, cercate, ci sono un sacco di musiche interessanti, ci sono anche un sacco di stuzzeria, chiaramente, perché bisogna anche essere onesti poi alla fine, perché insomma, però purtroppo, come sapete, anche se ogni tanto ci piace giocare a fare la radio privata e la radio pirata, è sempre meglio evitare, diciamo, insomma, di abusare della propria fortuna, insomma, anche se poi ho scoperto, non c'entra niente questo, però ho scoperto che Anchor, per esempio, fa quello che fece Spreaker in ab origine, che poi in realtà non si era mai capito se era vero o no, se era una sorta di mistificazione o no, però fatto sta che c'è una modalità Music Plus Talk all'interno di Anchor, quindi Anchor punto qualche cosa, che poi è il servizio di podcasting legato a Spotify, che ti permette di utilizzare la musica copyright. Okay. Questo per molti sarà sicuramente un vantaggio. Diciamo che poi anche la scelta della musica Creative Commons è alla fine di per sé una scelta, appunto, quindi alla fine è anche una scelta di campo, però è vero che è una scelta di campo anche un po' mascherata, cioè nel senso, io non posso raggiungere quel tipo di obiettivo e quindi allora con orgoglio sbandiero, insomma, però insomma, io se ci avessi la licenza SIAE, comunque i brani Creative Commons magari più selezionati magari li passerei uguale, cioè ammetto questo, insomma, come giusto che sia. E poi, ragazzi, se volete che vi piacerebbe, insomma, che Runtime Radio avesse, o all'interno delle varie trasmissioni o anche nelle rotazioni generali della musica Creative Commons, della musica copyright, andate su runtimeradio.it e cliccate su Anche Io, sul pulsante Anche Io, e lì potete decidere se contribuire all'interno del nostro progetto con un versamento ricorrente tramite Patreon, oppure un versamento una tantum tramite PayPal, perché se noi magari raggiungiamo determinati obiettivi, chissà che un giorno magari ci dovesse venire in mente di mettere la musica, appunto, copyright. Dicevo, torniamo un attimo sul discorso. Allora, io qui adesso invece dico una cosa che probabilmente può far arrabbiare, ma non lo dico per provocazione o come al solito giusto per creare lo scandalo e la polemica, però è vero pure che io ci sono delle cose, cioè io essendo cresciuto in una cultura dove appunto la donna in particolare ha lottato profondamente per la propria emancipazione, per la propria identità, per il proprio posto all'interno del mondo, e anche, insomma, dal punto di vista del rapporto di eguaglianza nei posti di lavoro, nei posti di leadership, in generale comunque avere una posizione uguale a quella dell'uomo o quantomeno, insomma, equiparabile, no? Perché poi dopo ci sono poi delle differenze magari oggettive, no? Che magari alcune cose proprio non possono o difficilmente potranno essere fatte, però diciamo in generale è una questione proprio culturale, cioè di inserirci all'interno di una società dove non c'è distinzione tra uomo e donna, o se l'uomo non è uomo e l'uomo e la donna non è donna, o se la donna è sia uomo che donna, o se comunque non vuole dare a se stessa una definizione sessuale perché nulla delle definizioni sessuali gli appartiene o lo identifica. Dall'altra parte però c'è un fatto che a volte rimango un po' sconcertato, anche con Michela ci è capitato, insomma, di conoscere donne che cercano il totem testosteronico, no? Quello che ogni tanto gli dà pure due sganassoni, cioè così, ti è, beccate due sganassoni, ah, no, però magari perché lo sganassone alla fine è rappresentativo della virilità dell'uomo, chi lo sa, perché in realtà io questo è un meccanismo che non ho mai capito e credo non capirò mai, chiaramente, perché dietro ci saranno sicuramente degli studi, saranno persone estremamente più qualificate di me nel parlare di questa cosa, però esiste questa realtà. Esiste, noi ne abbiamo visti insomma diverse anche in situazioni più o meno vicine a noi, e questa cosa mi fa pensare per esempio a tutte quelle donne che erano felici di essere sbattute dai fratelli bianchi, dato che appunto ritorniamo, sono quei due ragazzi che hanno ammazzato di botte senza nessuna motivazione se non quella appunto del totem testosteronico, Willy, quel ragazzo di colore che giustamente appunto ci ha lasciato le penne. Questi tizi si vantavano, come fanno molti, perché io vedo insomma in generale c'è questa cosa proprio macista che è proprio triste, raga, cioè è una delle cose più tristi. Magari fasse la foto mentre ti stai a ingruppare la ragazzetta di turno, e la ragazzetta di turno che fa la fila per essere ingruppata da te perché sei il totem testosteronico. Ecco, questa ci dimostra che il problema è culturale, ma in senso globale. Non è maschilista il problema. Cioè il problema è che qui c'è un problema proprio culturale. Ed è una cosa che a me questa cosa mi sconvolge, mi lascia. Perché io ne ho viste veramente tante, ragazzi, di queste situazioni. E mi domando, ma poi. Ah, poverina, quella c'è via gli schiaffi. Sì, vabbè, ma. A parte le situazioni delle persone che non sono in grado di uscire da un meccanismo di coercizione, di violenza, di abuso, perché non hanno la forza, perché non hanno il coraggio. So che sembra strano, ma va sicuro che ci sono persone che dategli due pizza a pizzi, sì. Però è così, cioè nel senso ci sono anche queste realtà, non è, negarlo sarebbe veramente stupido. E quindi è il fenomeno del machismo in generale, io è una cosa che non ho mai capito, forse perché non mi ha mai appartenuto, però il fatto che questa cosa poi abbia un fascino a modo suo, che poi è un po' lo stesso meccanismo dell'iperesibizionismo dei fratelli, lì è la stessa cosa, cioè i meccanismi sono sempre quelli, la gente che oramai col cellulare in mano si fa il selfie mentre va a menare qualcuno, o via dicendo, insomma, è la stessa cosa, tutte queste persone iper palestrate, super invasate, che iconizzano se stesso e la propria fisicità, infatti se li guardi negli occhi vedi il vuoto siderale, perché poi secondo me nello sviluppo mente-corpo ci deve essere sempre un po' un equilibrio, non dovete diventare come me, che magari ho lasciato proprio perdere il discorso del corpo, però non dovete manco essere eccessivi da quell'altro punto di vista, no? E questo ipermacismo, questa specie di subcultura che alla fine si crea e che crea una sorta di nucleo, una sorta di micromondo all'interno del quale tu pensi che, dato che sei il macista, puoi fare quello che ti pare, e un giorno perché ti è partita la brocca e devi dimostrare che sei qualcuno, anda lì, prende il primo negretto che ti capita, corcallo de botte fino a che questo non muore, giustamente, no? E poi noi possiamo fare tutte le analisi, no, all'interno di questo contesto, di queste situazioni, possiamo riflettere sul perché, sul per come, perché poi dopo escono fuori i dottori, no? Quelli che tiri fuori dall'armadio naftalina, quelli, il sociologo, no? Quelli che a un certo punto cominciano a spiegarti del perché, del per come succedono certe cose e via dicendo, no? Però poi alla fine, ragazzi, cioè, appunto stiamo parlando di nicchie culturali che esistono e che nessuno ha mai aiutato a sciogliere o a evolvere in qualche maniera, perché la notizia, insomma, alla fine era quella di cui hanno parlato ieri sera, era proprio il fatto che questi due ragazzi, che giustamente sono stati arrestati perché hanno ammazzato uno, e poi arriviamo un attimo al che dovrebbe significare essere arrestati in un paese civile, no? E che si lamentano del fatto che in carcere li vogliono accoltellare, gli sputano una roba da mangiare, che devono fare attenzione a qualsiasi angolo dove vanno. Ecco, io qua mi soffermo un secondo perché in realtà io sono ancora convinto e continuerò a essere convinto che secondo me il carcere non è una vendetta e non è una punizione in senso esemplare, non deve essere un qualcosa dove io come istituzione ti metto lì per farti del male perché tu hai fatto del male. Secondo me anche di fronte a situazioni come queste il carcere in teoria dovrebbe essere un elemento di redenzione, di ricostruzione, di rielaborazione della propria esistenza in qualche maniera. Poi sappiamo che magari questo non è possibile, magari in tutti i casi, o sappiamo che questa cosa a volte è un po' una finzione, sappiamo anche che comunque chi dovrebbe lavorare in merito a questo magari non lo fa o non lo fa così come dovrebbe essere, e quindi praticamente le carceri alla fine finiscono per essere appunto il purgatorio di queste persone, spesso in attesa del momento in cui vengono rilasciate o addirittura magari di lasciarci proprio le penne. Quindi alla fine diventano un carnaio, una sorta di zoo dove esemplari umani di ogni specie campa cercando di sopravvivere tra botte, schiaffi, coltellate. Ecco, tipo l'altro giorno uno si è fatto portare la pistola in carcere, non so in che maniera, e ha sparato ad altri, no? Perché questo poi alla fine... E questo contribuisce a disegnare all'interno dell'idea della società il fatto che il criminale è un criminale, basta, cioè non c'è se, non c'è ma, non c'è perché. E se torniamo al discorso che un atto di violenza non va mai giustificato, però non possiamo neanche in senso assoluto dire che quella persona è quello perché è quello, magari lo è perché è così, perché magari c'è un problema patologico sotto, però magari... cioè, a volte dobbiamo anche domandarci del perché queste persone diventano così, perché arrivano a fare questo, e comunque c'è qualcosa che è mancato all'interno di una società che dice di voler evolvere e poi lascia indietro tutti. Ogni realtà alternativa, ogni realtà diversa e non riconosciuta che viene vista come aliena viene lasciata indietro. I quartieri dove la gente spaccia, li spacciano, che schifo. E dove i ragazzi seminano perché non c'hanno altro da fare, che schifo, seminano. E poi dopo chiaramente tutte queste realtà diventano tra l'altro anche il terreno fertile per tantissime cose, non solo la criminalità ma anche per azioni di tipo ideologico, no? Che poi alla fine diventa anche questo. Però poi dopo leggi l'articolo e vedi insomma la madre di questi due tizi che veramente hanno il vuoto in faccia, che dice mica ha ammazzato la regina. E lì non dici ma che schifo, allora dovete morire tutti. Lì dici, vedi che è mancato qualcosa. Cioè mancava pure il presupposto perché questi potessero comportarsi diversamente in qualche maniera. Ma io non le sto a giustificare, cioè... Per me il fatto che loro si lamentino in carcere è perché ragazzi, avete volvolate, fai gangsta? E questo significa in una società come la nostra, significa che se vuoi far gangsta poi vai in carcere e prendi la saponetta nel sedere, prendi la coltellata sulla schiena, ti sputano in fascia, te sgarano, te menano, te corcano, ti fanno i cappottoni. E questo in una società come questa dove le persone vengono lasciate indietro e le carceri sono atti de revenge, de vendetta, alla fine ecco quello che succede. Cioè questo è, insomma ragazzi, il problema è che dietro ogni notizia, anche apparentemente sciocca, alla fine c'è sempre qualcosa di... c'è sempre un discorso da fare, si può entrare veramente in un tunnel di discussione che non finisce mai. Speakers, won't you be my summertime queen? It's been a bottom shelf budget and a high street dream. So what's your champagne slip doing with my ripped jeans? 20-something summer night. You and I, we were guided by moonlight on a midnight ride. While I was caught up in time, you were just wasting mine. I guess that's alright. We can fake it for the night, baby, I know your style. You can put me in your pocket, pick me up when you like. So what's your champagne slip doing with my ripped jeans? You only call me on the weekend. You're painting the town and no one else is around. You only call me on the weekend. When we dance in the dark, feels like we're miles apart. Vabbè, perché sono belle le canzoni, eh. Cioè non è che, non voglio dire che non sono belle, ma mi piacciono, mi piace sfumarle così, tenermele sotto come backgrounds, backgrounds musicale. Francesco dice: c'è della gente che non sta bene se non sta bene, e non solo donne. Assolutamente. Cioè, io adesso ho fatto questo disco, sono partito da questo presupposto, ma non faccio una questione del limite ideologico, culturale o genetico nei confronti delle donne. Walter invece dice che nel caso dei tizi io vedo anche un profondo tentativo di emulare i boss di Gomorra. Il totem che dici è la diretta conseguenza. Sì, infatti è quello che dicevo pure io, cioè volete fai gangsta perché vi piace fai gangsta, però è vero che secondo me è tutto, cioè è una ciambella, è il cinema, la televisione che emula una realtà, che si alimenta dal cinema e dalla televisione e emula il film, insomma. Quindi alla fine vedi che insomma è un po' tutta una serie di insiemi da questo punto di vista, insomma. Francesco dice giustamente: non solo Gomorra ma anche Suburra. Sì, vabbè, ma infatti il concetto resta assolutamente quello. Basta con sti droni insieme ai monopattini, sono i nuovi toscani. Sì, vabbè, questa è una cosa, insomma, che insomma ci portiamo dietro da molto tempo. Allora, scusate che sistemo il mixer. Beh, ragazzi, io prometto che il martedì prossimo parleremo di se, cioè, mi isolo dal mondo. Perché devo fare questo, io purtroppo, come ho detto nella puntata precedente di Buongiorno un cazzo, tu stai lì, ti prepari la tua puntata, o perlomeno parzialmente la prepari, poi dopo dici vabbè tanto li ritrovo, poi non li ritrovi, vabbè. Comunque è un altro discorso, ti prepari la puntata e mentre, ovviamente quando ti prepari la puntata, considerando che c'hai una puntata a settimana, e nel mentre intorno a te succedono cose, e queste cose quando succedono... Tu non puoi stare lì zitto e non partecipare, non dire la tua in qualche maniera, io in particolare, no? Ma in generale è così, cioè mi piace questa nuova tendenza di Runtime Radio, della quale io comunque dovrò sempre ringraziare Leo Vargion, perché senza Leo comunque questa cosa non ci sarebbe probabilmente stata. Il dare il via a stimolare la radio, a fare le live costanti anche la mattina, quindi iniziare in questo modo, e soprattutto parlare anche di temi particolari che vengono citati e approfonditi in OGM, vengono citati o approfonditi in Mattino Allora in podcast, e la stessa cosa poi che quello che succede anche ovviamente il giovedì mattina dalle 7 alle 8 anche in Disordinati Informati di Michela De Paola, che poi si ripete anche il sabato alle 8 e mezza, dalle 8 e mezza alle 9 e mezza, ovviamente insieme a me, quando è, insomma, se no poi è da sola, se no mi lascia solo a me, questo è quanto. Quindi è anche bello tutto sommato il fatto che con le differenti identità specifiche di questi programmi, quindi ognuno con il suo modo di vedere le cose, ognuno il modo di trattare le cose, si interscambino anche questi temi, perché magari una trasmissione prende spunto dall'altra e l'altra e via dicendo. Quindi siamo molto curiosi anche questa sera alle 8 quindi dalle 20 alle 20 e 30 di sentire la prima puntata di Le Orazioni della Sera di Walter Sbano, per vedere quali possono essere i temi e soprattutto come verranno sviscerati. Lui dice: io per la trasmissione da solo magari c'ho un po' di apprensione, ma secondo me è una questione di esercizio, poi piano piano troverai. In realtà ti rendi conto che mezz'ora è tanta a volte quando non hai organizzato bene gli argomenti, e poi quando inizi a parlare ti rendi conto che mezz'ora è poca, cioè diventa un po' tutto così. E niente, questo è quanto, ragazzi. Vi voglio assolutamente tanto bene, vedo che state continuando a scrivere in chat, ma le lezioni sono questa domenica o la prossima? Sai che non lo so. Vabbè, se sono, allora, se le, tra l'altro mi è stato detto, non è il motivo per cui non l'ho fatto, però avrebbe potuto essere il motivo per cui non l'ho fatto, che comunque sotto campagna elettorale io in teoria questa cosa delle elezioni non l'avrei potuto fare, perché non siamo titolati, non siamo testata giornalistica, però mi sembra un po' strano come tipo di discorso. Però il problema è che quando tu esprimi considerazioni, poi alla fine tendi a farlo magari per una parte piuttosto che per un'altra, e sotto campagna elettorale in effetti questo non si può fare. Infatti le radio sono obbligate, per esempio, ad avere tutte quante gli spot di tutte quante le liste. Però vabbè, comunque prima o dopo le elezioni comunque ne parleremo, perché ci sono delle cose particolari sulla questione delle liste elettorali romane. Ci sono anche delle peculiarità anche interessanti, poi tutto sommato, che vanno anche un po' capite, per cercare di capire un po' quale può essere, insomma, il meccanismo. Bene ragazzi, io direi che se la smettete di scrivere in chat, perché sennò io, allora facciamo sabato speciale lezioni, va bene, sì, ti cedo lo spazio. Cioè già Michela, vedi, si sta a mettere le mani avanti, dice: senti, fallo tu che a me non me va, perché insomma, vabbè, vergogna Michela, vergogna, ricordatelo, insomma. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata, vi ricordo che il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7 alle 8 c'è il mattino Allora in podcast con Leo Varghion, il martedì, quindi oggi, c'è Buongiorno un cazzo con me sempre dalle 7 alle 8, il giovedì c'è Disordinati Informati con Michela sempre dalle 7 alle 8, il programma dove Michela prende degli argomenti della settimana, li approfondisce tramite rassegna stampa. La sera dalle 8 alle 8 e mezza, quindi dalle 20 alle 20 e 30, ci sarà adesso Leo Orificenze, come? Oddio, ciao, Leonorificenze. Ascolta Walter, l'ho detto bene fino adesso, vabbè, le onoranze funebri, vabbè, comunque c'è il programma di Walter stasera, ascoltatelo assolutamente. E lunedì sera c'è OGM, sempre ogni lunedì alle 21, e invece il giovedì alle 21.30 c'è Quando Eravamo Futuro, torniamo dopo aver saltato un giovedì, chiaramente. Detto questo, vi ringrazio a tutti, continuate a seguire le trasmissioni di runtimeradio.it e ci vediamo la prossima settimana.